Il terzo anello ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Le Memorie di Barry Lyndon, di William Thackeray, traduzione di Tommaso Giartosio. Finalmente capitò un'occasione in cui il contegno di Lord Ballingdon verso di me fu così insolente, eravamo a caccia in numerosa illustre compagnia, da farmi perdere del tutto la pazienza. Lanciai il cavallo verso quel ragazzaccio di strada, lo strappai dalla sella con tutte le mie forze e dopo averlo scagliato malamente al suolo balzai a terra anche io e con il mio frustino somministrai alla testa e alle spalle di quella giovane canaglia una punizione tale che avrebbe potuto rimetterci la pelle se non mi avessero trattenuto in tempo. Ero una furia scatenata, capace di commettere un omicidio o qualsiasi altro delitto. Il ragazzo venne riportato a casa e messo a letto, dove rimase un giorno o due con una febbre dovuta alla rabbia e all'umiliazione almeno quanto al castigo ricevuto. E tre giorni dopo, quando mandammo a chiedergli nella sua stanza se voleva venire a tavola con la famiglia, fu ritrovato un biglietto sul suo tavolo e il letto vuoto e freddo. Quel giovane farabutto era scappato e aveva avuto la sfrontatezza di scrivere a sua madre, cioè mia moglie, parlando di me in questi termini. «Signora», diceva, «ho sopportato per quanto ero umanamente possibile i maltrattamenti di quell'insolente arricchito irlandese che voi avete accolto nel vostro letto. Non sono soltanto la sua bassa nascita e la volgarità di tutte le sue maniere a disgustarmi, obbligandomi a odiarlo finché avrò l'onore di portare quel nome di Lyndon che egli non merita, ma anche la sua condotta vergognosa verso vostra signoria, i modi brutali e indegni di un gentiluomo, l'aperta infedeltà, i continui sperperi, l'abituale ubriachezza, le vergognose truffe e ruberie ai danni della mia e vostra proprietà. Sono questi oltraggi fatti a voi, più ancora del comportamento infame di quel farabutto nei miei confronti, a riempirmi di sconcerto e di sdegno. Sarei rimasto al fianco di vostra signoria, come promesso, ma in questi ultimi tempi sembra che abbiate preso le parti di vostro marito, e siccome non posso punire di persona questo ignobile mascalzone che, sia detto a nostra vergogna, è il marito di mia madre, e d'altra parte non posso tollerare di essere testimone del modo in cui vi tratta, e infine la sua orribile compagnia mi ripugna come una pestilenza, ho fermamente deciso di lasciare il mio paese natio, almeno finché duri la vita di quell'essere detestabile, o la mia. Possiedo una piccola rendita che mi è stata lasciata da mio padre. Non dubito che Mr. Barry la rafferà, non appena gli sarà possibile, ma se a vostra signoria rimane ancora qualche sentimento materno, forse me la concederete. Potete dare ai banchieri l'ordine di pagarmela regolarmente, ma se non riceveranno quest'ordine, non ne sarò affatto sorpreso, sapendovi nelle mani di una canaglia che non si sarebbe fatto scrupolo di rapinare la gente sulla via maestra. E cercherò di farmi strada nella vita, in modo più onorevole di quel pezzente di un avventuriero irlandese che è riuscito a privarmi dei miei diritti e a scacciarmi dalla mia casa. Questa lettera delirante era firmata a Ballingdon. Tutti i vicini giurarono e spergiurarono che io ero stato a conoscenza dei suoi piani di fuga e che ne avrei tratto il mio vantaggio. Ma io dichiaro sul mio onore che dopo aver letto questa pagina infame, il mio più schietto desiderio era di averne l'autore a portata di mano per fargli sapere quello che pensavo di lui. Eppure non c'era modo di cavare questa idea dalla testa della gente. Insistevano che volevo uccidere Ballingdon, mentre le tendenze omicide, come ho detto, non sono mai state tra i miei difetti. E poi, se anche avessi voluto colpire il mio giovane nemico in modo così estremo, il comune buonsenso mi avrebbe indotto a tranquillizzarmi. Sapevo benissimo che si sarebbe rovinato con le sue stesse mani. Se io avessi davvero assassinato Milord, non credo che sarei stato vittima di ingiurie e calunnie più vergognose di quelle che già mi tenevano dietro per città e campagne. «Presto avremo notizia della morte del ragazzo, statene certi!» esclamava un mio amico. «Poi verrà quella di sua moglie!» aggiungeva un altro. «E lui sposerà Jenny Jones!» proseguiva un terzo, e così via. Lavender mi riferiva tutte queste scandalose dicerie sul mio conto. L'intera regione era in armi contro di me. Nei giorni di mercato, i fittavoli, incontrandomi, si toccavano appena il cappello, accigliati, e si allontanavano in fretta. Quei gentili signori che prima partecipavano alle mie partite di caccia, ora le disertavano, lasciando a casa l'uniforme con i miei colori. E al ballo della contea, quando offrii il braccio a Lady Susan Cappermore e mi disposi, come sempre, al terzo posto nella contraddanza dopo il duca e il marchese, tutte le coppie ci voltarono le spalle, via via che avanzavamo verso di loro, e restammo a ballare da soli. Susan Cappermore ha una tale passione per la danza che ballerebbe anche a un funerale se qualcuno la invitasse, e io avevo troppo carattere per arrendermi davanti a un insulto esplicitamente rivolto contro di me. Così ballammo nelle ultime file, con la plebe più volgare, farmacisti, sapete, e mercanti di vini, e procuratori, e altra gentaglia a cui si concede di partecipare a serate simili. Il vescovo, parente di Lady Lyndon, trascurò di invitarci a palazzo per il sermone inaugurale delle assise, e per farla breve, mi venne inflitto ogni oltraggio che si possa rovesciare addosso a un gentiluomo innocente e onorevole. A Londra, dove ora portai la mia famiglia e il personale di casa, non mi aspettava un'accoglienza molto più cordiale. Quando andai a rendere omaggio al mio sovrano a St. James, Sua Maestà mi domandò con intenzione quando avessi avuto notizie di Lord Ballingdon, perché io, con una presenza di spirito fuori dall'ordinario, risposi: «Sire, milord Ballingdon sta combattendo coloro che si sono ribellati contro la corona di Vostra Maestà in America. Vostra Maestà desideri che io mandi un altro reggimento ad aiutarlo?» A questa risposta il re voltò i tacchi e io uscii con un inchino dalla sala delle udienze. Quando Lady Lyndon si presentò a baciare la mano della regina nel suo salone, seppi che a sua signoria era stata rivolta esattamente la stessa domanda. E lei tornò a casa molto agitata per i rimproveri che le erano stati mossi. Era così che si premiava la mia lealtà. Così si giudicava il mio sacrificio per il paese. Partii bruscamente con la famiglia e servitù per Parigi, dove fui ricevuto in modo ben diverso. Ma il mio soggiorno tra gli incantevoli piaceri di quella capitale fu brevissimo. Il governo francese, che da lungo tempo trescava con i ribelli americani, ora riconobbe apertamente l'indipendenza degli Stati Uniti. Ne seguì una dichiarazione di guerra, e tutti noi beatissimi inglesi ricevemmo l'ordine di andarcene da Parigi. Io credo di averci lasciato una o due belle signore inconsolabili. Quello è l'unico luogo al mondo dove un gentiluomo può vivere come gli pare, senza che sua moglie gli stia tra i piedi. Nel corso della nostra permanenza, la contessa e io non ci incontrammo quasi mai, se non in qualche occasione mondana a Versailles o al tavolo da gioco della regina. E il nostro caro piccolo Brian imparò mille nuove raffinatezze che lo resero la delizia di chiunque lo incontrasse. Quanto alle mie ambiziose speranze per un titolo di pari d'Irlanda, al mio ritorno cominciai ad accorgermi che ero stato grossolanamente ingannato da quel furfante di Lord Crabbs. Gli piaceva molto prendersi il mio denaro, ma non era in grado di procurarmi con la sua influenza una coroncina nobiliare, non più di quanto potesse farmi avere la tiara papale. Dopo il mio viaggio sul continente, il sovrano non mi mostrò un briciolo di benevolenza in più di quella che aveva manifestato prima della mia partenza. E venni a sapere da uno degli aiutanti di campo dei duchi reali, suoi fratelli, che la mia condotta e i miei svaghi di Parigi, contraffatti in modo odioso nei resoconti di alcune spie locali, erano stati oggetto di regali commenti. Influenzato da queste calunnie, il re aveva addirittura detto che io ero l'uomo con la peggiore reputazione di tutti e tre i regni. Io, un uomo con una cattiva reputazione, io, un disonore per il mio nome e per il mio paese. Quando udii queste menzogne, mi infuriai tanto che andai subito da Lord North. Volevo protestare con il ministro in persona affinché mi si permettesse di comparire davanti a Sua Maestà e discolparmi delle accuse a mio carico, ricordare i servigi che avevo reso al governo votando in suo favore e infine chiedere quando avrei ricevuto la ricompensa che mi era stata promessa, quando, una buona volta, il titolo portato dai miei antenati sarebbe rivissuto nella mia persona. In quel grasso Lord North c'era una certa sonnolenta freddezza, la peggiore provocazione che i rappresentanti dell'opposizione abbiano mai dovuto temere da lui. Mi stette a sentire con gli occhi socchiusi. Quando terminai il mio discorso, lungo e impetuoso, pronunciato marciando a grandi passi su e giù per la sua stanza di Downing Street e gesticolando con tutta l'energia di un irlandese, aprì un occhio, sorrise e mi chiese dolcemente se avevo finito. Quando gli risposi di sì, disse: «Bene, Mr. Barry, vi risponderò punto per punto. Il re è fortemente restio alla nomina di nuovi pari, come sapete. Le vostre rivendicazioni, come le chiamate, gli sono state presentate e la graziosa risposta di Sua Maestà è stata che eravate l'uomo più impudente che ci fosse nei suoi domini e che meritavate un capestro piuttosto che una coroncina. Quanto a toglierci il vostro appoggio, ma siete liberissimo di trasferire voi e il vostro voto dove più vi pare e vi piace. E ora, dato che ho moltissimi impegni, vorreste farmi il piacere di ritirarvi?» E così dicendo portò pigramente la mano fino alla campanella e mi mandò via con un inchino, non senza chiedermi con cortesia se ci fosse mai qualcos'altro al mondo in cui potesse essermi utile. Tornai a casa in preda a una furia indescrivibile. E dato che proprio quel giorno avevo a pranzo Lord Crabs, aggredii Sua Signoria strappandogli la parrucca dalla testa e schiacciandogliela sulla faccia fin quasi a soffocarlo. Poi attaccai quella parte della sua persona in cui, a quanto si raccontava, un tempo l'aveva colpito Sua Maestà. Il giorno dopo la storia aveva fatto il giro della città e nei club e nei negozi di stampe erano appese immagini di me occupato a eseguire l'operazione a cui ho accennato. Tutta Londra rise dell'illustrazione che mostrava il Lord e l'Irlandese, e non occorre dire che ci riconoscevano tutti e due. Ma per quel che mi riguarda, a quell'epoca ero comunque uno dei personaggi più celebri di Londra. I miei abiti, il mio stile, i miei cocchi circondati di lacchè erano noti dovunque, come accade a ogni arbitro del buon gusto, e la mia popolarità forse non eccelleva nei circoli più elevati, ma era certamente considerevole altrove. Io non ero un buon oratore e al Parlamento non mi ascoltavano. Del resto l'assemblea fu sciolta poco dopo, nel 1780, e furono indette nuove elezioni. Queste, come del resto tutte le mie disgrazie, mi capitarono tra capo e collo nel momento più sfavorevole. Mi ribolle ancora il sangue quando penso all'infame condotta dei miei nemici in quelle scellerate elezioni. Mi fecero passare per un barba blu irlandese. Vennero stampati e diffusi libelli e grossolane caricature in cui io ero raffigurato mentre fustigavo Lady Lyndon, frustavo Lord Ballingon, lo mettevo alla porta in una notte di tregenda e non so che altro. Ma per quanto affrontassi con impeto i miei accusatori, per quanto profondessi nell'elezione immense somme di denaro, per quanto spalancassi le porte di Acton Hall e vi facessi scorrere lì e anche nelle mie osterie in paese champagne e borgogna come fossero acqua, il responso delle urne mi fu contrario. Quei mascalzoni dei notabili locali mi avevano tutti voltato le spalle, unendosi alla fazione dei Tiptoff. Si fece addirittura credere che io tenessi prigioniera mia moglie con la forza, E anche quando la mandai in paese da sola, vestita dei miei colori e con Brian in grembo a far visita alla moglie del sindaco e alle signore più importanti, nulla valse a dissuadere la gente dall'idea che lei vivesse nel terrore e tremasse alla mia vista. Che la marmaglia di Bruti ebbe l'insolenza di chiederle perché si azzardava a tornare a casa e se per cena le piacevano le frustate. Venni clamorosamente battuto alle elezioni e subito tutti i conti dei debitori mi piovvero addosso insieme. Tutti quei debiti che avevo contratto nei lunghi anni del mio matrimonio, i creditori, unanimi come una banda di briganti, li presentarono nello stesso momento finché non coprirono il mio tavolo a mucchi. Non ne riporterò qui l'ammontare. Era spaventoso. I miei amministratori e i miei legali peggiorarono le cose. Ero intrappolato in un'inestricabile ragnatela di cambiali e debiti, ipoteche, garanzie, con tutte le spaventose traversie che ne derivano. Avvocati su avvocati giunsero a precipizio da Londra. Venne concluso un accomodamento dopo l'altro e le rendite di Lady Lyndon finirono vincolate in modo irreversibile per soddisfare quegli uccelli da preda. Per renderle giustizia, Lady Lyndon si comportò con sufficiente gentilezza in questo periodo difficile. Ogni volta che volevo del denaro dovevo farle qualche moina e ogni volta che ricorrevo alle moine potevo star certo di rimettere di buon umore quella donna debole e volubile, tanto debole di carattere, tanto pronta a sbigottirsi, che pur di assicurarsi una settimana di tranquillità con me sarebbe stata pronta a dar via un reddito di 1.000 sterline l'anno. E quando incominciai a trovarmi nei guai a Acton e optai per l'unica via d'uscita, cioè di ritirarmi in Irlanda per diminuire le spese e versare via via la maggior parte delle mie rendite ai creditori finché le loro richieste non fossero state soddisfatte, Milady era lietissima al pensiero di andare via. Disse che se ce ne fossimo stati tranquilli, era certa che tutto sarebbe andato bene. Anzi, era felice di sopportare la relativa povertà in cui avremmo dovuto vivere, in vista di quell'occasione di starcene un po' da soli, nella pace domestica, come lei sperava. Partimmo per Bristol proprio all'improvviso, lasciando indubbiamente quelle odiose canaglie, quegli ingrati di Acton, a sparlare di noi in nostra assenza. I miei puro sangue, i cani, vennero venduti immediatamente. Quegli avvoltoi sarebbero stati lieti di attaccarsi anche alla mia persona, ma ero fuori dalla loro portata. Con la mia abile amministrazione avevo riscosso dalla vendita delle miniere e del resto del mio patrimonio personale una somma pari almeno al loro valore, e su questo punto almeno i mascalzoni rimasero delusi. Quanto agli ori, agli argenti e a tutti gli altri beni della casa di Londra, non potevano toccarli, perché appartenevano agli eredi della famiglia Lyndon. Passai dunque in Irlanda e presi dimora a Castle Lyndon per qualche tempo. Intanto tutti credevano che io fossi un uomo completamente rovinato e che il celebre e brillantissimo Barry Lyndon non sarebbe mai più apparso nei circoli di cui era stato l'ornamento. Ma non fu così. Nel bel mezzo delle mie difficoltà, la fortuna mi riservava ancora una grande consolazione. Dall'America giunsero in patria dispacci che annunciavano la sconfitta del generale Gates e la morte di Lord Burlington, presente allo scontro come volontario. Del mio personale desiderio di possedere un misero alloro nobiliare irlandese me ne importava poco. Adesso mio figlio era erede di una corona comitale in Inghilterra e io gli feci assumere subito il titolo di Lord Visconte Castle Lyndon, il terzo dei titoli della famiglia. Mia madre quasi impazzì di gioia nel salutare il suo nipote chiamandolo Milord, e io sentii che tutte le mie sofferenze e privazioni erano ampiamente ripagate quando vidi quel caro bambino innalzato a un simile onore.